24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti. Saluto il nostro Peter Bescapè e concludiamo la settimana di 24 mattino. Oggi parleremo di magistrati. Ieri abbiamo scoperto che molti hanno doppi, tripli ruoli e questo può creare problemi di conflitti di interesse, oltre che di spreco di denaro pubblico, di somme di poltrone. Ne parliamo alle 8:30, mentre avremo ospite alle 8:20 il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, che dice i concorsi pubblici andrebbero aboliti, tanto si sa già sempre chi vince. Ne parleremo con lui alle 8:20. Ora da cosa iniziamo? Dai quotidiani che trovate in edicola. È venerdì 23 marzo, uno sguardo ai titoli e per l'ennesimo giorno, e sarà così ancora per giorni, il dibattito sui giornali è legato alla riforma del mercato del lavoro. Guardate i titoli di Sole 24 Ore, articolo 18, eviteremo abusi, ed è il premier Monti che parla. Corriere della Sera, Monti va avanti sul lavoro. Repubblica, Monti sull'articolo 18, vado avanti. La Stampa, lavoro, oggi la riforma. C'è infatti il Consiglio dei Ministri oggi. Libero, Monti rischia il posto. Il Giornale, Bersani disperato, articolo 18, Monti non si ferma. L'Unità, partita aperta, battaglia sull'articolo 18. Il Manifesto, c'è la foto di Mario Monti, nessuno mi può giudicare. Il Fatto Quotidiano, chi vuole sfasciare il PD. Messaggero, articolo 18, Monti non cede. Il Secolo XIX, lavoro, Monti non cede. Vedete che Avvenire, Monti si cambia e niente abusi. Questi sono alcuni dei titoli dei quotidiani. Io da cosa voglio partire? Beh, una storia emblematica raccontata da Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Il TAR multa il sindaco anti-slot machine. I ragazzi bigiano la scuola per giocare alle slot machine fino a diventare schiavi della droga del gioco? Non è un problema sanitario, ma di ordine pubblico. E quindi, sulla base di questa decisione, il sindaco stia alla larga e non danneggi le società casinò. È quanto ha stabilito una sentenza del TAR contro il comune di Verbania, che è ora chiamato a pagare quasi 1,5 milioni di euro sulla base di una legge vecchia come il Cucco del 1931, scrive Gian Antonio Stella, che poi per un'intera pagina all'interno, a pagina 31 del Corriere della Sera, racconta questa storia. È la storia appunto del comune di Verbania, dove non l'attuale sindaco ma il precedente sindaco, per contrastare il fatto che molti giovani giocassero tanti dei loro euro alle slot machine, ha fatto un'ordinanza stabilendo che queste potessero essere in funzione soltanto dalle 3 del pomeriggio alle 10 di sera. Una scelta condivisa anche dall'opposizione, che poi è diventata guida politica della città, e quindi dall'attuale sindaco Marco Zacchera, che dice: Verbania, 31.500 abitanti e la sola società Euromatic, gestiva 402 apparecchi, una ogni 78 abitanti, altro che Las Vegas. Insomma, il sindaco ha detto precedente: limitiamo l'orario per evitare che i ragazzini bigino a scuola e vadano a giocare al mattino alle slot machine. La società Euromatic ha fatto ricorso e sulla base di una legge del 1931 il TAR ha dato ragione alla società Euromatic, perché appunto non è una questione di sanitaria e sulla quale dunque può intervenire il sindaco con un'ordinanza, ma una questione di ordine pubblico. Ed ecco allora il comune condannato anche a pagare 1.350.000 euro di danni che la società Euromatic ha quantificato come perdite subite in conseguenza della colpevole attività posta in essere dall'ente locale. Il tocco finale, scrive Stella, del comunicato della società è così peloso da essere irresistibile. La società comunica che una parte dei proventi che saranno liquidati in suo favore verranno utilizzati per essere devoluti a un'associazione contro il gioco patologico e problematico. Ecco, questa è la storia. Il sindaco che vieta le slot ai ragazzi deve pagare i danni alle società casinò. sul Corriere della Sera. Poi voglio andare sulla Stampa, pagina 23, dove troviamo questa storia, anche se in piccolo, molto tra lo spassoso e il non spassoso e il tristemente reale. È intollerante al menù del carcere, scarcerato. Riccardo Arena racconta la storia del carcere di Sulmona, dove si mangiano troppe fave e anche troppi piselli. Li propongono con la pasta, col riso, con le seppie. Poi c'è il minestrone, ancora le fave. Può un detenuto che soffre di favismo, una malattia molto grave, stare in un carcere del genere? La risposta evidentemente è no, secondo il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che ha dunque concesso il differimento della pena a Michele Aiello, ingegnere, imprenditore sanitario. Da alcuni giorni tornato a casa sua a Bagheria, trascorre un anno dei 15 mesi e mezzo che deve scontare in detenzione domiciliare. Dunque non è stato scarcerato, non è libero, è agli arresti domiciliari. Perché? Perché appunto, retroscena grottesco della sua scarcerazione, negli elaborati si evidenzia che il vitto del carcere non ha consentito un'alimentazione adeguata del detenuto, risultando dal diario nutrizionale la presenza di alimenti potenzialmente scatenanti una crisi emolitica e assolutamente proibiti. Dunque, incompatibile con il vitto del carcere e quindi agli arresti domiciliari. Secondo me c'è spazio per qualcos'altro. Che ha combinato il sindaco, l'ex sindaco, oggi vice sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, colui che ogni tanto tuona con toni non troppo concilianti contro gli immigrati. Epocale fu quella, li vestirei da leprotti e farei il tiro al leprotto, praticamente col fucile. E è successo che c'è stato un episodio molto grave, una violenza sessuale nei confronti di una donna vicino alla stazione di Treviso nei giorni scorsi, proprio nel punto dove mesi fa una giovane studentessa venne violentata da un colombiano che poi fu arrestato. Ora c'è stata invece delle molestie molto pesanti nei confronti di una donna. Ma Gentilini come ha derubricato il caso? Ma che violenza! Era una semplice pacca sul culo. Questo ha detto lo sceriffo colpisce ancora, scrive Repubblica. Il vice sindaco Gentilini, conosciuto per le sue esternazioni drastiche su immigrati o clandestini, ha provocato una rivolta a Treviso, questa volta contro lui PD e PDL, imprenditrici, sindacaliste. Il suo commento a proposito di una donna pesantemente molestata due giorni fa vicino alla stazione è stato proprio questo. È stato solo una pacca sul culo data da un ragazzino a una donna. Non c'è nessun allarme, siamo la città più sicura d'Italia. E anche sul Secolo XIX, Gentilini, shock, violenza, ma dai su, è stata solo una pacca e via. Ma quale allarme sicurezza? Si è sentito, come dire, con una città messa sotto accusa per la sicurezza. Allora, sui giornali la riforma del mercato del lavoro ancora raccoglie il maggior numero di pagine in tutti i quotidiani. Da che parte la vogliamo prendere? Voglio oggi raccontarvi intanto tre vignette, no? Magari per iniziare col sorriso sulle labbra. Giannelli, in prima pagina del Corriere della Sera, modello tedesco, ci sono Monti vestito da Kaiser tedesco al fianco la Fornero e Monti da un calcione proprio lì, nel di dietro a Bersani che vola lontano, flessibilità in uscita. Monti che dà un calcione a Bersani. Oppure sull'Unità, Staino, c'è la figlia di Bobo che dice Monti forse ritocca il testo dell'accordo e Bobo ci aggiungerà un pardon. O ancora Altana in prima pagina di Repubblica, straordinario, rispolvera il famoso ombrello che finisce nel di dietro, sempre lì, l'ombrello e quello che lo subisce ancora. È per aprire la strada agli investimenti esteri. E insomma, i vignettisti vari la vedono così, questa riforma del mercato del lavoro. Intanto, la questione è questa. Il governo va avanti sulla questione licenziamenti, il tema più spinoso, anche se, e il Corriere lo mette a pagina 3, ieri il ministro Elsa Fornero ha fatto vedere, con tanto di foto oggi riprodotta sui giornali, ha fatto vedere in conferenza stampa tutto il sommario della riforma del mercato del lavoro, col ditino, quel ditino che l'ha resa celebre, no? Qualcuno dice punta il ditino come se fosse una maestrina, col ditino Elsa Fornero ha indicato il sommario dicendo: vedete, l'articolo 18 occupa solo 3 righe del sommario del documento elaborato con le parti sociali. E il terzo punto, vedete quanto poco spazio occupa? Così il ministro Elsa Fornero, cioè a dire la riforma, e questo è un dato di fatto, una riforma complessa, complessiva, però sui giornali si parla solo di questo benedetto articolo 18. Il governo va avanti, racconta Davide Colombo a pagina 3 del Sole 24 Ore, nessuna possibilità di riottenere il posto in caso di licenziamento individuale per motivi economici. Il premier Monti, nel giorno finale della trattativa con le parti sociali, ha assicurato che il governo farà di tutto per evitare ogni tipo di abuso, ma al tempo stesso non cederà al pressing di PD e CGIL sulla questione più delicata, vale a dire quella del reintegro del lavoratore. I dettagli sulla manutenzione dell'articolo 18 verranno discussi oggi in Consiglio dei Ministri. Si parte dalla proposta fissata nel documento di policy, illustrato ieri dal ministro Fornero, confermata la nullità dei licenziamenti discriminatori, dunque questo non cambia. Arriva invece l'indennizzo per quelli basati su ragioni oggettive, vale a dire i motivi economici, mentre i licenziamenti disciplinari vengono rimandati alla decisione del giudice per la scelta tra reintegro ed indennizzo. Questo è il cuore di quella parte della riforma che riguarda l'articolo 18. Certo, Monti, secondo retroscena di Claudio Tito in prima pagina di Repubblica, ha detto la frase che il Partito Democratico un po' aspettava, vale a dire: il testo può essere migliorato in Parlamento. Ecco, la linea infatti del PD sembra questa dopo le divisioni iniziali. Bersani pare che ieri abbia detto: da qui al momento in cui arriverà in Parlamento la riforma saranno poi tutte chiacchiere, tutte lotte verbali, tutte lotte a parole, ma in realtà la sostanza è che Monti ha detto il provvedimento potrà essere cambiato in Parlamento e pare che Bersani aspettasse questo segnale per rassicurare un po' gli animi, come dire, i giochi non sono chiusi, tanto più che basta vedere anche il leader della CISL Bonanni, che in un'intervista all'Unità praticamente fa un pochino di marcia indietro rispetto al sì iniziale, dicendo: la norma va cambiata, e proprio il punto è quello, la questione dei licenziamenti economici, il timore è che poi si facciano passare altri licenziamenti di altra natura, e quindi su questo Bonanni dice va cambiata e il Consiglio dei Ministri dovrà ridefinire il suo disegno di legge o decreto, che comunque dovrà poi approdare in Parlamento, e il Parlamento è sovrano, non c'è un'intesa scritta, non abbiamo firmato alcun accordo, anche per non lacerare ancora di più i rapporti con la CGIL. Sosterremo chiunque vorrà apportare modifiche che possano rendere più efficienti le norme. In questa intervista a Laura Matteucci sull'Unità, pagina 6, dunque Bonanni dice: i giochi non sono conclusi. Ci sono due temi poi sempre affrontati sui quali, guardate, io non ho una risposta. I cittadini anche non hanno una risposta e gli statali dipendenti pubblici non ce ne vogliano e non me ne vogliano. Ma giustamente la domanda che uno si pone è: ma perché, se ci sono delle modifiche all'articolo 18, non devono valere anche per i dipendenti pubblici? Cosa sono, una categoria protetta? Siete dei panda da tutelare? 3.400.000 circa, vado a memoria, insomma, di dipendenti pubblici. Perché le regole, se valgono per tutti i dipendenti privati, non devono valere anche per i dipendenti pubblici? Non si capisce bene. Su questo vi voglio segnalare due articoli. Il primo è un editoriale di Vittorio Feltri, che è molto duro, in prima pagina del giornale: i fannulloni statali restano intoccabili. Vittorio Feltri, appunto, la linea è questa, cioè non si capisce il perché debbano essere tutelati in maniera strana. Scrive all'interno dell'articolo a pagina 2 Vittorio Feltri: non si comprende come mai l'abolizione dell'articolo non debba avere effetti sul pubblico impiego. Intendiamoci, non abbiamo nulla contro gli statali affini, ma qualcuno dovrebbe spiegare perché tutti i lavoratori siano licenziabili tranne loro, quando anche fannulloni o in esubero. In linea di principio ciò è profondamente sbagliato e un governo che ogni due per tre parla di equità e giustizia dovrebbe rendersene conto. Il sospetto è che gli enti pubblici, pur avendo bilanci disastrati, se ne infischino di farli quadrare. Se si accorgono di aver 10 impiegati più del necessario non si dannano. Ovvio, non ci rimette né il sindaco né il presidente, ma il contribuente. In realtà, su questo, vi segnalo l'apertura del quotidiano Italia Oggi e l'articolo a pagina 4, sempre Italia Oggi, che recita così: il licenziamento economico già esiste per gli statali. È il caso, per esempio, del personale in esubero rispetto alle esigenze funzionali o finanziarie. È il caso, per esempio, degli enti amministrativi che sforano il patto di stabilità e che dovrebbero sforare il patto di stabilità e non possono, e per questo sono in difficoltà economiche. In questi casi, anche per il dipendente pubblico, è possibile il licenziamento per motivi economici. Dunque, Luigi Oliveri, a pagina 4 di Italia Oggi, dice: si parla tanto di questa idea degli statali sono esclusi, in realtà rispetto a delle leggi che non vi sto a citare, la 183 del 2011, vabbè, insomma, commi vari, il nuovo articolo 18 varrà anche per il lavoro pubblico in alcuni casi. Nessun dubbio, dunque, scrive Italia Oggi, che per i dipendenti pubblici valgano le regole di volta in volta vigenti poste dallo statuto dei lavoratori. Dunque anche i dipendenti pubblici non potranno ottenere il reintegro del posto di lavoro qualora siano stati coinvolti in licenziamenti individuali per ragioni economiche. Dunque Italia Oggi svela che potrebbe esserci questa novità. Vabbè, dal parte del Partito Democratico, da parte della reazione politica l'abbiamo detta, Iena è graffiante sulla stampa oggi, ogni tanto lo fa. Manco Bersani ha reagito duramente, manco fosse il leader di un partito di sinistra. E poi c'è tutto questo aspetto che è partito con quella maglietta La Fornero al cimitero. Ieri Beppe Grillo ha messo quello che lui chiama rigor montis in una bara, con scritto articolo 18. Va bene, bello, satira, complimenti. Sta di fatto che si iniziò così anche in passato, in anni non lontani. C'è chi sminuisce, c'è chi definisce ma sì, ma non sono questi i problemi. In realtà, per esempio, non è la visione di Giuliano Ferrara sul Foglio, ma prima voglio andare ancora a Diliberto, intervistato da Antonello Caporale, è stato anche alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, e oggi a Repubblica continua a insistere: non ho visto quella scritta, un pasticcio quella foto, ma chi specula mi delude. Così Diliberto: sono affranto, dispiaciuto, deluso per la gazzarra che si tenta di imbastire. E Antonello Caporale: quella stramaledetta maglietta, scusi Diliberto, non l'ho vista, non sono riuscita a leggere l'ultima parola. Ecco, non ha letto cimitero. Non ne ho percepito il senso, so che lei mi crede, non devo convincerla della mia buona fede. E Antonello Caporale dice: le credo, Diliberto. Il problema era quella transenna, cioè praticamente fa capire che della transenna, oltre la quale stava la signora, quella transenna, quella cosa lì, quello spazio superiore, la barra superiore della transenna, gli ha occultato la vista e quindi non ha visto quella scritta Fornero al cimitero. Io ieri ironizzavo su Twitter: oculisti di tutto il mondo, unitevi! Bisognerebbe dire così per Diliberto. E invece Libero e il Giornale criticano: la sinistra gioca col morto. Libero: Grillo fa la bara per Monti, eccolo qua, articolo 18, con una bara camuffata un po' da macchina, da automobile, in realtà è una bara con scritto rigor montis. Il Foglio, Giuliano Ferrara: la lingua è una spia. Ieri, per esempio, in un titolo della Stampa, la t-shirt, ha colpito anche a me quel titolo, la t-shirt Fornero al cimitero, è stata definita demenziale. Se la t-shirt è demenziale, scrive Ferrara, l'omicidio Biagi è forse pop, quello d'Antona postmoderno, l'esecuzione di un Tarantelli rock estremo, una specie di Monty Python. Ma anche altri giornali sono in zona grigia di ipocrisia. Dicono e non dicono, minimizzano, eguagliano le ragioni della Fornero disgustata e dell'ex ministro offeso. A nessuno viene in mente, come è successo a noi, che la lingua cimiteriale è un segnacolo, un retaggio malato anni 70 che ci portiamo appresso in modo indecente, che la dice lunga purtroppo sullo spirito con cui l'Italia si prepara a 16 ore di sciopero generale CGIL e a una battaglia cavilloso parlamentare intorno alla riforma di una norma di legge di mezzo secolo fa, inventata per un altro mondo e per un altro mercato del lavoro. Così è, e noi ripartiamo dopo il traffico. E allora, ieri c'è stato il cambio, o meglio, la designazione al vertice di Confindustria. Designato Squinzi, Giorgio Squinzi, alla presidenza. Sarò il presidente di tutti, questo è il titolo della prima pagina del Sole 24 Ore. Vi segnalo il profilo di Guido Palmieri in prima pagina. Chi è Giorgio Squinzi? Grandi orizzonti, una solida base familiare è la ricetta dell'azienda che ben rappresenta il Made in Italy vincente, vale a dire la Mapei, campione del Made in Italy professionale. Di cosa si tratta? 60 impianti produttivi distribuiti in 29 paesi nei 5 continenti, internazionalizzazione imposta anche dal tipo di materiali, e cioè gli adesivi per l'edilizia che non si possono trasportare oltre 500 km, dunque vanno prodotti sul posto. Risultato: una multinazionale con un fatturato di oltre 2,1 miliardi nel 2011 che occupa 7.500 dipendenti. E uno dei risultati più significativi della mia carriera imprenditoriale, sottolinea Squinzi, è quello di non avere mai effettuato licenziamenti, non aver mai chiesto la cassa integrazione. Imprenditore milanese, non vuole essere definito bergamasco, è nato anche a Cisano, Bergamasco, ma solo perché la mia famiglia era sfollata, ma ci sono rimasto solo 6 mesi in quel paese. Quali sono le sue passioni? Lo sport, è presidente anche del Sassuolo, ma soprattutto non solo il calcio, ma soprattutto il ciclismo e anche la musica. Non perde uno spettacolo alla Scala, spesso vola al Metropolitan di New York, a Salisburgo, a Vienna, per seguire gli appuntamenti con la musica lirica. Immancabile la gita domenicale in bicicletta nelle valli bergamasche. E soprattutto le puntate a Milano con sempre il biglietto della metropolitana in tasca, perché più comodo rispetto alle perdite di tempo in auto. Questo è anche un po' il profilo del personaggio. Chi è Giorgio Squinzi? Un chimico con la passione del ciclismo. Questo è il titolo dell'articolo di Guido Palmieri in prima pagina del Sole 24 Ore. Nella politica oggi eccezionalmente devo far sentire un audio, perché qualche giorno fa noi avevamo Leo Luca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori, il problema delle primarie, il pasticcio delle primarie del PD a Palermo. Qualcuno diceva: allora si candida Orlando, no? Lo risentiamo un attimo, Orlando, qualche giorno fa da noi? Si candida Leo Luca Orlando? C'è anche... No, Leo Luca Orlando ha detto in lingua aramaica, ma anche in lingua fenicia, scelga lei quella lingua preferisce fra le due più antiche alfabeti del mondo, che non era candidato, non si considerava candidato e non sarà candidato. E allora, in lingua aramaica, fenicia, non sarà candidato, non si sente candidato e non si candiderà. Pagina 21 del Sole 24 Ore, Palermo, Orlando si candida sindaco. È la notizia del giorno di oggi, il Corriere della Sera. Palermo, Orlando scende in campo e corre contro il candidato del Partito Democratico. Andiamo avanti, gli esteri sono dedicati alla fine dell'assedio a Tolosa. È stato ucciso dopo un blitz in cui sono stati sparati 300 colpi Mohamed Merah, colui che ha ucciso prima i paracadutisti, filmando tutto, poi la strage alla scuola ebraica di Tolosa, per l'appunto. Vi segnalo tra gli articoli di cronaca quello di Stefano Montefiori a pagina 19 del Corriere della Sera: i reparti, le granate, l'ariete, tutti gli interrogativi sul blitz e polemica in Francia, perché Sarkozy aveva detto lo voglio vivo e tutti si chiedono come mai non sono riusciti a prendere vivo un uomo solo. C'è polemica per questo assalto, per esempio, perché non hanno usato i gas lacrimogeni? Bastava buttarli, era serragliato in appartamento e non sarebbe resistito 5 minuti. oppure lo avevano identificato perché sono andati in casa sua, bastava aspettare che uscisse di casa per colpire ancora e arrestarlo in quel momento. Insomma, c'è polemica in Francia per questo raid che ha portato all'uccisione di questa persona, perché forse prenderlo vivo sarebbe stato meglio per cercare di capire come mai aveva fatto questo e anche se aveva delle altre connessioni con questa rete di Al-Qaeda. Oh, devo concludere, c'è solo spazio per questo, una storia del quotidiano nazionale, tutte patacche le lauree ai VIP, sigilli all'Ateneo Fantasma, a Latina, la sede di una finta università. L'Università Giovanni Paolo I, Ateneo Privato di Studi Cultura Universitaria, che aveva dato laurea honoris causa a Lino Banfi, ripreso da YouTube, ma anche a Navarro Valls, Maria Pia Fanfani, Rocco Buttiglione, l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, il cantante Lando Fiorini, a Tiziano Terzani, in memoria ovviamente. Tutto falso, tutto sigillato dalla procura. Anche il rettore è falso, bidone honoris causa, tutte patacche le lauree ai VIP. Vi segnalo questa storia a pagina 15 del Quotidiano Nazionale per concludere. 24 mattino. Siamo qui allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21. Oggi voglio salutare il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano e Provincia, Roberto Carlo Rossi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei rappresenta quanti camici bianchi, visto che vi chiamate così? Sono circa 24.000 medici e in totale sono 27.000 professionisti che poi ci sono moltissimi odontoiati. Perfetto. Lei ieri ha lanciato, un paio di giorni fa per la verità, una denuncia che secondo me colpevolmente è finita un po' all'interno delle pagine dei giornali. È titolata da Repubblica così: aboliamo i concorsi per i medici, tanto vincono sempre i soliti raccomandati. Presidente, questo è il suo pensiero? Ma la mia constatazione, che poi tra l'altro è una cosa che mi fa sorridere, perché insomma sono quelle cose che sanno tutti, no? I segreti di Pulcinella. Allora, molto semplicemente, io noto che questo strumento, cioè lo strumento concorsuale, che tra l'altro si fa solo praticamente nel pubblico, è uno strumento logoro, perché evidentemente se è uno strumento che non serve per selezionare, ma è un passaggio obbligato, io credo sia il caso di passare oltre. Fare delle cose inutili è un dispendio di tempo e di denaro per tutta la collettività. Io credo che sia opportuno, io l'ho chiamata catena meritocratica, insomma, sì, che ognuno si prenda la responsabilità di fare le nomine che deve fare. Concorsi? Cioè, secondo lei bisognerebbe scegliere, siccome sono truccati, sarebbe meglio un sistema in cui si dice fate vedere i curricula, chi ha la responsabilità sceglie le persone e poi è meglio così, insomma. Sì, adesso sa, adesso non è che si può fare di tutta l'erba un fascio e dire che tutti i concorsi sono truccati, per carità di Dio. Io dico solo questo, che questo sistema è universalmente noto e veramente tutti dicono che non funziona. E allora è molto meglio basarsi sui curricula dei professionisti, che devono essere, a mio modo di vedere, pubblicati a cura degli ordini secondo criteri decisi e condivisi a livello nazionale da tutti e in maniera standard, eccetera. Chi vuole pubblica il suo curriculum, si mette in gioco e tutti possono vederlo, i giornalisti, i cittadini, sì, in modo che la scelta è trasparente. Senta, ma lei dice sono molto, cioè, tutti truccati non si può dire, però in parte sono truccati. Ci spieghi come funziona un concorso truccato, cioè quali sono i meccanismi per cui che si instaurano? Francamente non è che so come si può fare. I concorsi poi sono fatti in tanti modi, essenzialmente c'è una parte scritta e una parte orale. Ovviamente nelle parti scritte è molto, se uno non commette reati è tutto a posto, per cui si fa una graduatoria corretta di quello che viene fatto, però è ovvio che nella parte orale insomma, l'interrogazione può essere fatta. È chiaro, quella è un po' più. Può essere fatta nel modo che si crede più opportuno. Ma voglio dire, cioè, chi è che vince? Quello che si sa già prima perché è parente, perché è amico, perché è spinto da quello che è già in cattedra. Guardi, su questo voglio essere molto, molto chiaro. Allora, io ritengo che in media la sanità italiana e. Siccome io sono presidente di Milano, la sanità lombarda sia una sanità buona, cioè non stiamo parlando di una sanità che ha delle grosse magagne, è migliorabile sicuramente, però tutto sommato noi italiani e soprattutto noi lombardi siamo assistiti abbastanza bene, insomma. Quindi evidentemente i professionisti che ci sono negli ospedali non sono malvagi. Però io dico questo, no? Siccome il concorso è uno strumento costoso e impegnativo, allora c'è una quota di parenti, non so come dire, che non credo sia enorme, però c'è. E poi c'è una quota di persone che anche per merito, per carità, non so, ma insomma comunque vincono perché insomma devono vincere perché in quel posto lì si pensa che siano idonei loro. In media, tutto sommato, sono persone anche valide, ma io faccio un'altra considerazione. Se uno strumento è inutile, cioè non vedo perché utilizzarlo. Lei dice molte persone che vincono i concorsi sono persone scelte già prima e che sono valide, tanto vale sceglierle per meriti allora, certo, a questo punto, assolutamente. No? Abolendo il concorso. Che... Anche perché se lei sceglie una persona per concorso e poi si rivela un totale incapace, anche questi sono casi rari, per carità di Dio, però è ovvio che così è molto difficile, mi passi il termine un po' brutale, virgolette, liberarsene, no? Mentre invece è ovvio che se la scelta è diretta, a questo punto puoi dire guarda, ne hai fatti di tutti i colori, insomma mi sembra veramente che sia il caso di scegliere un'altra persona. Non solo, ma chi l'ha scelta, mentre nella procedura concorsuale un direttore generale non può dire, cioè dice ma c'è stato il concorso, io qua ci devo fare. È ovvio che quando chiama lui una persona che poi si rivela un incapace, gli verrà detto, caro mio, ma tu hai scelto una serie di persone che sono degli incapaci. Quindi lei allora propone, Presidente, sostituire i concorsi, un sistema poco trasparente, con invece un sistema a chiamata. Le piacerebbe di più, così tutti vedono i titoli delle persone che si candidano e quando uno sceglie poi risponde della scelta. Questo sarebbe il modo più corretto. È stato sintetico e perfetto. Perfetto. Senta, io le annuncio tra l'altro che lunedì avremo dalle 8.30 alle 9 il ministro della salute, Balduzzi, porrò anche questa domanda a questo punto. Intanto io la ringrazio per questa sua proposta, vedremo poi come andrà avanti. Ringrazio il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano e Provincia, Roberto Carlo Rossi, che propone appunto di eliminare di fatto i concorsi considerati poco trasparenti, con un sistema da sostituire invece con un sistema più a chiamata, per titoli, insomma, per promuovere la meritocrazia. Allora, di cosa parliamo invece noi dopo la pubblicità e il meteo? Ieri la stampa titolava così: l'altra casta, ecco le toghe multistipendio. Ecco, poi dopo mi accuseranno, sei contro i magistrati. Non ho nulla contro i magistrati, come quelli che mi dicono sei a favore dei magistrati. Non sono né a favore né contro i magistrati. Raccontiamo delle cose, raccontiamo delle storie. Ebbene, ci sono magistrati che hanno doppi, tripli, alcuni quadrupli incarichi. Ieri la stampa ha fatto i nomi, ha raccontato le loro storie, tutto grazie a un emendamento di un deputato che ha reso possibile questa operazione di trasparenza da parte del governo Monti. C'è anche questa storia della propina, ha molto colpito, la propina, cioè questa dal latino medievale, regalia, dono, in spagnolo mancia. La propina che alcuni magistrati dell'Avvocatura di Stato hanno come parte integrante dello stipendio. Parte integrante. A volte la propina supera lo stipendio stesso. Che ne so, stipendio da 150.000 euro e propina da 200.000 euro. Ma che cavolo è questa propina? 24 mattino. Alle 8.34 minuti, eccoci qua. Ieri la stampa titolava così: l'altra casta, ecco le toghe multistipendio. Vale a dire magistrati che, con un'operazione di trasparenza, il governo Monti ha reso noto gli stipendi, hanno doppi, in qualche caso tripli, addirittura in estremi casi quadrupli incarichi. Sono c'è da dire subito, una minoranza di magistrati, il 2,6% delle toghe ordinarie sono fuori ruolo, cioè pur mantenendo lo stipendio sono distaccati in altre strutture dello Stato. Magari qualche storia la racconterò, qualche esempio di doppio o triplo incarico raccontati con nome e cognome ieri dalla stampa. Ne vogliamo parlare con un deputato che ha reso possibile, diciamo, questa operazione di trasparenza, ci spiegherà come, Roberto Giachetti del Partito Democratico, che saluto. Onorevole, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Saluto anche il magistrato Giuseppe Cascini, che è il segretario uscente, diciamo, possiamo dire così, dell'Associazione Nazionale Magistrati, che sta rinnovando i vertici, a giorni ci saranno i nuovi vertici, è stato segretario dell'associazione. Buongiorno, dottor Cascini. Allora, intanto Giachetti, ci spieghi un attimo cosa vuol dire che è stato possibile un suo emendamento per rendere noto quelli che sono dei doppi tripli incarichi, e poi questo come lo giudica lei, quello che sulla stampa ieri si legge, cioè di magistrati che hanno più incarichi e più stipendi, ovviamente? Ma guardi, io ho presentato questo emendamento ad ottobre, quindi tenga conto anche dei tempi, e dal 3 novembre che è andato in discussione nel provvedimento detto anticorruzione, è iniziata una strana rallentamento dell'iter parlamentare, per cui nonostante l'8 novembre del 2011 l'allora ministro della giustizia Nitto Palma avesse espresso il parere del governo su questo emendamento, che è un emendamento che molto semplicemente propone di regolare, ovviamente si può essere d'accordo o meno, ma di regolare in modo diverso la disciplina del fuori incarico, del fuori ruolo. Da allora c'è stato ripetutamente sedute di commissione, questo emendamento in votazione e non si riesce a votare. Dato il nuovo governo con ovviamente il ministro Severino, è intervenuto prima il segretario, poi è intervenuto il ministro Severino, hanno ribadito il parere, che era un parere contrario, per essere chiari, sia del governo Berlusconi, e però nonostante questo è passato. No, non è passato. Nel senso che firma e non si riesce a votare. Ecco. Nell'ultima, e ovviamente io di questo do atto al ministro Severino, nell'ultima riunione della commissione, a questo punto, in attesa di poterlo votare, sulla base di questo emendamento sono stati chiesti chiarimenti al governo per sapere qual era la reale situazione di fuori ruolo non parliamo soltanto dei questo lo voglio dire chiaramente, non parliamo soltanto dei magistrati ordinari, perché parliamo dei magistrati contabili, parliamo dell'avvocatura dello Stato, dei procuratori, quindi è una vasta e variegata numero di persone che sono appartenenti ovviamente allo Stato e che hanno questa caratteristica. Per esempio, sulla stampa raccontano alcune storie. Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti, stipendio da 148.000 euro, a cui aggiunge 160.000 euro come capo di gabinetto al Ministero dell'Agricoltura, o Claudio Iafolla, capo di gabinetto delle infrastrutture, guadagna 105.000 euro più 13.000 da revisore dei conti dell'Università di Bari, 37.000 della Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, con uno stipendio base che cumula di 224.000 euro. Ma insomma, se ne possono fare. Ci sono dei casi anche più eclatanti, ci sono alcuni presidenti dell'Authority che guadagnano come normalmente i consiglieri di Stato, magari presidente di una sezione, 200.000 euro, e poi aggiungono il compenso che viene dato per il presidente dell'Authority, che è il doppio. Ma ci sono tanti casi, uno volesse studiare. Dottor Cascini, senta, intanto è una questione solo di, secondo lei, come dobbiamo leggere questi fuori ruolo, come una qualcosa di spreco piuttosto che invece un qualcosa di possibile anche conflitto di interesse, perché ricoprono dei ruoli fuori ruolo, mi scusi il gioco di parole, a volte apicali anche nelle strutture dello Stato? Guardi, devo chiarire subito che questa materia non riguarda quasi per nulla i magistrati ordinari. La gran parte dei casi che voi citate sono casi di magistrati di altre magistrature, amministrativi e contabili. E per i magistrati ordinari non è possibile il doppio incarico, è possibile il distacco fuori ruolo, cioè un magistrato assume un incarico al Ministero e solamente al Ministero della Giustizia e non in altri luoghi, in quel caso viene collocato fuori ruolo. Non ha il doppio incarico e quindi non ha nemmeno il doppio stipendio, cosa che invece avviene per i consiglieri di Stato che svolgono sia la funzione di consiglieri di Stato che quella di dirigenti del Ministero. Io peraltro da tempo sono contrario al fatto che un magistrato che vada fuori ruolo prenda un trattamento retributivo più alto, perché oggi i magistrati distaccati al Ministero, se collocati in posizioni apicali, hanno lo stesso trattamento retributivo dei dirigenti generali o dei direttori generali dei ministeri, che è più alto di quello dei magistrati ordinari, perché nonostante quello che si dica della casta dei magistrati, i dirigenti dei ministeri guadagnano molto di più di un magistrato. Secondo me questo è sbagliato, perché rende troppo allettante, troppo appetibile per il magistrato quell'incarico, e quindi fa venir meno la ragione istituzionale per la quale in certi posti devono andare dei magistrati. Parliamo di uffici molto delicati, gli uffici che si occupano delle carceri, delle rogatorie internazionali, che hanno uno stretto collegamento con l'attività giudiziaria, ma proprio per questo la legge vuole che ci sia un magistrato, cioè una garanzia di indipendenza. Se però quel posto è allettante perché si guadagna molto di più, non il va rischio bene. Che questa indipendenza si attenui è molto alto. Senta, però ci tengo a precisare che questa situazione dei doppi incarichi, degli eccessi di guadagni, delle authority, degli arbitrati, non riguarda i magistrati ordinari, non riguarda assolutamente noi, per noi sono vietati tutti gli incarichi. No, però lei da magistrato, sai che la chiamiamo spesso, ci aiuta a capire anche questo mondo. Io per esempio le vorrei che lei chiarisse, io ieri un po' ci ho giocato anche su questa vicenda che riguarda i 360 magistrati dell'Avvocatura dello Stato che prendono quella che viene definita la propina. Io nella mia ignoranza ne ho scoperto l'esistenza ieri, pensavo fosse una vitamina forse, dottor Cascini, invece la propina dal latino medievale regalia, dono, in spagnolo è la mancia, che cos'è, insomma, perché ce lo spieghi, la propina. Gli avvocati dello Stato hanno un doppio sistema di retribuzione, uno è lo stipendio, che è quello dei magistrati amministrativi, anche questo più alto di quello dei magistrati ordinari, non mi stancherò mai di ripeterlo, e in più prendono una percentuale sulle cause che vengono trattate. Il meccanismo delle propine però prevede che la percentuale sulle cause non venga attribuita al singolo avvocato che va a discutere la causa, ma venga messa, diciamo così, in un calderone e poi divisa equamente tra tutti gli appartenenti all'ufficio. Quindi diciamo che gli avvocati dello Stato hanno un trattamento fisso e un trattamento variabile, uno stipendio più una percentuale divisa equamente fra tutti gli avvocati dell'ufficio sulle cause che vengono fatte. Questo ovviamente porta il trattamento retributivo a livelli piuttosto elevati, però queste sono scelte, come dire, che dipendono dal legislatore. Sì, no, certo. Su questo, onorevole Giachetti, è una questione, o la colpisce più l'aspetto delle doppi incarichi, sa, fa molto casta, no? Poi detto da uno che fa parte del mondo della casta per eccellenza, i parlamentari, così metto in mezzo anche lei, dice almeno c'è un'altra casta, oppure è la questione del possibile conflitto di interesse? No, che appunto, mi consente dire questo, nel senso che ovviamente c'è anche un problema che riguarda gli stipendi, soprattutto nel momento in cui ovviamente vengono fatte delle prese, delle misure, ma adesso non voglio fare neanche il problema, però non lo releghiamo esclusivamente al problema dei soldi in più che si prendono, per il fatto che comunque uno fa un lavoro e percepisce due stipendi, di per sé è una cosa abbastanza strana. È importante anche il fatto, quello che dice Cascini è anche vero, però diciamo intanto non sono proprio pochissimi, perché in base alla relazione che ci ha portato il ministro Severino, diciamo la collocazione fuori ruolo per i giudici ordinari comunque è il 2,6% rispetto all'organico, e stiamo parlando comunque di 227 persone, le quali però sono, nella gran parte, per esempio 91 sono al Ministero della Giustizia, e molto spesso sono distribuite all'interno dei vari ministeri, addirittura all'interno della Camera e del Senato, addirittura nella Presidenza del Consiglio, in posizioni di particolare delicatezza, perché spesso stanno negli uffici legislativi, sono magari capi di gabinetto, allora intervengono direttamente anche ovviamente in quella che è la formazione, la costruzione della norma. Questo, diciamo, ovviamente lo sa benissimo Cascini, questo prescinde dal fatto che siamo tutte persone per bene, siamo tutte persone assolutamente integre, però è inevitabile che quando entrano in campo misure che possono riguardare una determinata categoria, il fatto, se noi rivendichiamo, diciamo, l'esigenza di superare il conflitto di interessi in tanti livelli, non c'è dubbio che la è interessante un conflitto di interessi, anche questo mi lasci anche dire, poi ovviamente le lascio la parola, che è verissimo quello che diciamo. Io le faccio presente che però quando parliamo del fuori ruolo, poi parliamo di coloro che formalmente sono stati messi fuori ruolo. Vi sono casi, mi risulta per esempio che l'attuale capo di gabinetto del ministro della funzione pubblica, Patroni Griffi, che si chiama Garofoli e che è un consigliere di Stato, fa il capo di gabinetto al ministero e non fuori ruolo e continua a fare anche il consigliere di Stato. Quindi diciamo, questo per esempio, al di là del problema Roberto Roberto Garofoli, questo la stampa lo diceva, cumula lo stipendio di consigliere di Stato, l'indennità di capo di gabinetto al ministero della pubblica amministrazione 70.000 euro, incassa anche 3.200 euro lordi mensili per i costi post universitari alla Lex Four. Questa poi anche corsi universitari. No, però è interessante perché l'onorevole Giachetti ci dice, da qui voglio ripartire dopo il traffico, che ci sono, lo ha detto il ministro Severino, su 8.734 magistrati ordinari, 227 fuori ruolo, molti appunto al Ministero della Giustizia, e il dottor Cascini ci ha detto devono stare lì per una garanzia di indipendenza, eccetera. Però sono in una posizione dove poi si discutono anche la formazione di eventuali norme che quando dovessero anche andare a regolare qualcosa del corpo della magistratura pongono forse un possibile conflitto di interesse, oppure no? Allora ci interroghiamo sui doppi, tripli incarichi di alcuni magistrati. 800 24 00 24, sentirei Enrico da Pisa che ci ha chiamato. Buongiorno Enrico. No, è caduta la linea ancora, cade, richiamiamolo. Stefano da Brescia, buongiorno. Buongiorno, dica Stefano. Io volevo dire la mia. Allora, secondo me per legge dovrebbero essere vietati i doppi e tripli incarichi, anche perché sono tutti posti di lavoro che avremmo in più, perché con la disoccupazione che abbiamo in Italia potremmo aumentare. Io sarei curioso di sapere quanti doppi e tripli incarichi abbiamo in Italia, a parte la magistratura, ma nella medicina, in tanti ambienti abbiamo doppi tripli incarichi che sono tutti posti di lavoro. Ne fa una questione proprio di posti numerici di lavoro che di questi tempi sono da preservare. Grazie Stefano. Laura da Roma, buongiorno. Sì. Laura. Buongiorno, io volevo intervenire per chiarire quanto riguarda le propine che... Sì. Che prendono gli avvocati dello Stato, dell'avvocatura dello Stato. Una parte di queste viene dagli onorari delle cause vinte dall'avvocatura in favore dell'amministrazione. L'altra parte viene dalle spese compensate che i giudici liquidano sempre nelle cause vinte e che sempre le cause vinte dall'avvocatura e che sono regolate dall'articolo 21 della legge 103 del 69. E vabbè, questo dal punto di vista tecnico. E sono denari che vengono richiesti alle amministrazioni pubbliche. Sì, ma questo dal punto di vista tecnico, la ringrazio per la precisazione. A me aveva incuriosito un po' anche il termine, se vuole, propina, ci avevo giocato un po' ieri, però la ringrazio per la spiegazione. Abbiamo recuperato Enrico da Pisa, che poi voglio tornare da Cascini. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Buongiorno a voi. No, il mio intervento era solo per precisare quello che secondo me alla fine non è mai precisato a sufficienza. In realtà io svolgo le funzioni di magistrato ordinario, il collega Cascini l'ha già detto, ma volevo ribadirlo, che la magistratura ordinaria in ruolo, quindi il 98% più o meno magistrato in ruolo, non gode di alcuna doppia retribuzione. Questo e però questo l'abbiamo detto. Sì, però altrimenti io purtroppo non ho letto l'articolo ieri della stampa. Però sembra che altrimenti si accomunino tutti un po' i magistrati. No, era chiaro, cioè è scritto in maniera chiara. Anche, devo dire la verità, l'esistenza di questa propina su cui chiaramente si gioca un po'. Però il magistrato ordinario il ruolo veramente non gode. No, ma è chiaro, guardi, lei l'ha detto, fa bene a ribadirlo, come ha detto Cascini, sono il 2,6% di toghe ordinarie fuori ruolo. Però, dottor Cascini, lei deve rispondere a quello che Giachetti ha detto chiaramente. Questi magistrati ordinari fuori ruolo che sono al Ministero della Giustizia, come l'ha detto, sono anche i ruoli dove si possono, che ne so, fare dei possibili embrioni di decreti legge che riguardano magari la magistratura, nei quali magari ci mette lo zampino come consiglio indipendente, per carità, un magistrato. Questo non è un conflitto di interesse? Ma io sono un po' contrario a quest'idea dell'isolamento della politica da tutto il resto del mondo, come se la politica non dovesse tener conto del punto di vista dei destinatari delle norme. Penso però che la politica ha la libertà di scegliere i propri collaboratori, non è obbligatorio che siano magistrati quelli distaccati al Ministero, sono i ministri che scelgono se avvalersi della collaborazione di un magistrato o altro. Io penso che la presenza di un magistrato sia essenziale in alcuni uffici, penso agli uffici che si occupano del 41 bis per i detenuti mafiosi, penso alla Commissione parlamentare antimafia, penso all'ufficio che si occupa delle rogatorie internazionali, lì la presenza dell'esperienza di un magistrato è essenziale. Per l'ufficio legislativo è una scelta del ministro se si vuole avvalere di un magistrato o di altri. Dal mio punto di vista però questi incarichi, se la legge li vuole mantenere, non dovrebbero essere retribuiti più dello stipendio del magistrato. Cioè sì, non dovrebbero per non essere un'attrattiva, esatto, non devono essere allettanti. Però Per quanto riguarda i magistrati amministrativi, lì la questione è molto più delicata, perché da un lato c'è, secondo me, una cosa che non va bene, cioè il doppio incarico e il doppio stipendio. Dall'altro lì sì che c'è il rischio di un conflitto di interessi, perché la magistratura amministrativa si occupa del controllo giurisdizionale sugli atti del governo, sugli atti dell'amministrazione pubblica, e quindi il fatto che loro lavorino anche contemporaneamente all'interno dell'amministrazione pubblica, questo sia un evidente caso di conflitto di interessi, perché sono i giudici dei propri atti. No, è chiaro, vorrei dall'onorevole Giachetti, ma onorevole abbiamo un minuto, ribaltare la domanda. Lei ha paura che la politica abbia timore a intervenire nei confronti magari della magistratura laddove vengono chiamati dei magistrati anche negli uffici legislativi del Ministero? Per cui poi si fa fatica poi a fare delle norme contro o comunque in conflitto? Io sono d'accordo sul fatto che la politica si deve confrontare, ci mancherebbe altro, credo che la politica faccia senso. Non confondiamo il fatto di confrontarsi ascoltando ovviamente le opinioni di tutti, dei singoli e delle categorie, questo vale anche per i magistrati, dal fatto che questo confronto si realizza solo se i magistrati sono, come dire, all'interno del sistema legislativo. Io i 20 secondi che mi rimangono, lo dico semplicemente perché non stiamo parlando solo del Ministero della Giustizia, noi abbiamo magistrati distaccati al Ministero degli Esteri, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni Culturali, al Ministero dell'Ambiente, perché sono le commissioni parlamentari, addirittura abbiamo un magistrato distaccato all'ambasciata italiana a Washington. Ora, francamente, il confronto va benissimo, però faccio un esempio, più di qui un tema delicato che è quello, per esempio, della responsabilità civile dei magistrati, che è stato inserito in un modo più slacco all'interno, però è un tema che obiettivamente fa parte del dibattito politico, adesso al di là di come la si veda. Se la norma che deve sostituire questa norma sbagliata che è stata inserita nella comunitaria deve essere costruita dal governo all'interno di un ministero, magari che è il Ministero della Giustizia, dove all'interno sono 90 magistrati, che le ragioni per cui sono lì ovviamente non è che qualcuno è stato obbligato a metterci, però sa benissimo Cascini che anche, diciamo, una volta che si sono radicati dentro è una tradizione che è difficile toglierli. Va bene, io ringrazio l'onorevole Roberto Giachetti del Partito Democratico e Giuseppe Cascini, segretario uscente dell'Associazione Nazionale Magistrati, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Viola Bottoni e il nostro Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a lunedì alle 7:20.